Canto quinto della Divina Commedia, il Purgatorio di Dante Alighieri. Questa registrazione LibriVox è di dominio pubblico. Letto da Pierre. Canto quinto. Io era già da quell'ombre partito e seguitava l'orme del mio duca, quando di retro a me drizzando il dito una gridò: «Ve, che non par che luca lo raggio da sinistra a quel di sotto, e come vivo par che si conduca!» Gli occhi rivolsi al suon di questo motto, e vidi le guardar per maraviglia pur me il lume che era rotto. «Perché l'animo tuo tanto s'impiglia?» disse il maestro, «che l'andare allenti, che ti fa ciò che quivi si pispiglia? Vien dietro a me e lascia dir le genti. Sta come torre ferma che non crolla giammai la cima per soffiar de venti, che sempre l'uomo in cui pensier rampolla sovra pensier da sé dilunga il segno, perché la foga l'un dell'altro insolla. Che potevi io ridir se non io vegno?» Dissilo, alquanto del color cosperso che fa l'uom di perdon talvolta degno. E intanto per la costa da traverso venivan gente innanzi a noi un poco, cantando miserere averso averso. Quando s'accorse ch'io non dava loco per lo mio corpo al trapassar de raggi, mutar lor canto in un «oh» lungo e roco, e due di loro in forma di messaggi corsero contra noi e dimandarne: «Di vostra condizion fatene saggi!» E il mio maestro: «Voi potete andarne e ritrarre a color che vi mandaro che il corpo di costui è vera carne, se per veder la sua ombra restaro, con mio avviso, assai è lor risposto. Facciagli onore ed esser può lor caro». Vapori accesi non vid'io sì tosto di prima notte mai fender sereno, né sol calando nuvole d'agosto, che color non tornasser suso in meno. E giunti là, con gli altri a noi dier volta, come schiera che corre senza freno. «Questa gente che preme a noi è molta, e vengoti a pregar», disse il poeta, «però pur va, ed in andando ascolta. O anima che vai per esser lieta, con quelle membra con le quali nascesti», venian gridando, «un poco il passo queta. Guarda, s'alcun di noi unque vedesti, sì che di lui di là novelle porti. De, perché vai? De, perché non t'arresti? Noi fummo tutti già per forza morti, e peccatori infino all'ultim'ora. Quivi lume nel ciel ne fece accorti, sì che, pentendo e perdonando, fuora di vita uscimmo a Dio pacificati, che del disio di sé veder n'accuora. Ed io, perché ne vostri visi guati non riconosco alcun, ma se a voi piace cosa ch'io possa, spiriti bennati, voi dite, ed io farò per quella pace che dietro a piedi di si fatta guida di mondo in mondo cercarmi si face». Ed uno incominciò: «Ciascun si fida del beneficio tuo senza giurarlo, pur che il voler non possa non ricida. Ond'io, che solo innanzi agli altri parlo, ti prego, se mai vedi quel paese che siede tra Romagna e quel di Carlo, che tu mi sie de tuoi prieghi cortese infano, sì che ben per me s'adori, perché io possa purgar le gravi offese. Quindi fu io, ma li profondi fori, ond uscì il sangue, il sul qual io sedea, fatti mi furo in grembo agli antenori. Là, dov'io più sicuro esser credea, quel d'Aesti il fe far che m'avea in ira, assai più là che dritto non volea. Ma s'io fossi fuggito inver la mira, quand'io fui sovraggiunto ad Oriaco, ancor sarei di là dove si spira. Corsi al palude, e le cannucce il braco m'impigliar sì ch'io caddi, e lì vid'io delle mie vene farsi in terra laco. Poi disse un altro: «De, se quel disio si compia che ti tragge all'alto monte, con buona pietate aiuta il mio. Io fui di molte feltro, i son buon conte. Giovanna o altri non ha di me cura, perch'io vo tra costor con bassa fronte». Ed io a lui: «Qual forza o qual ventura ti traviò sì fuor di Campaldino, che non si seppe mai tua sepoltura?» «Oh», risposegli, «a pie del Casentino traversa un'acqua ch'ha nome l'Archiano, che sovra l'ermo nasce in Appennino. Là, ve il vocabol suo diventa vano, arriva io, forato nella gola, fuggendo a piedi e sanguinando il piano. Quivi perdei la vista e la parola nel nome di Maria finì, e quivi caddi e rimase la mia carne sola. Io dirò il vero e tu lo ridi tra i vivi. L'angel di Dio mi prese e quel d'inferno gridava: «O tu dal ciel perché mi privi? Tu te ne porti di costui l'eterno per una lagrimetta che il mi toglie, ma io farò dell'altro altro governo». Ben sai come nell'aere si raccoglie quell'umido vapor che in acqua riede, tosto che sale dove il freddo il coglie. Giunse quel mal voler che pur mal chiede con l'intelletto, e mosse il fumo e il vento per la virtù che sua natura diede. Indi la valle, come il dì fu spento, da Prato Magno al Gran Giogo coperse di nebbia, e il ciel di sopra fece intento sì che il pregno aere in acqua si converse. La pioggia cadde e ai fossati venne di lei ciò che la terra non sofferse. E come ai rivi grandi si convenne, ver lo fiume real tanto veloce si ruinò che nulla la ritenne. Lo corpo mio gelato in sulla foce trovò l'Archian rubesto, e quel sospinse nell'arno e sciolse al mio petto la croce che io fei di me quando il dolor mi vinse. Voltommi per le coste e per lo fondo, poi di sua preda mi coperse e cinse. De, quando tu sarai tornato al mondo e riposato della lunga via, seguitò il terzo spirito al secondo, ricorditi di me che son la pia. Siena mi fe, disfecemi Maremma. Salsi colui che n'anellata pria disposando m'avea con la sua gemma». Fine del canto quinto.